anziché la solita lezione tradizionale, è una lezione spettacolo. Chi ci aiuterà in questa riflessione? Pierluigi Bartolomei, che si sta aggirando intorno a voi. Chi è Pierluigi Bartolomei? Innanzitutto è uno sposo, è un padre di 5 figli, è romano da Roma, è arrivato da Roma proprio stamattina, figlio di un poliziotto con la vocazione di educatore. Attualmente è preside di una scuola professionale, Centro Elis di Roma. Recentemente si è improvvisato anche, tra virgolette, sceneggiatore e attore, mettendo in scena i contenuti di un famoso libro scritto dallo psicologo americano Chapman, dal titolo I 5 linguaggi dell'amore. L'innamoramento, ecco il primo principio che dovremmo portarci a casa, è che dura 2 anni. Scientificamente provato, così come la donna è 6 anni più avanti all'uomo, seconda cosa da portarvi a casa è che l'innamoramento dura 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, se è clandestino, cioè se è una situazione parallela. Ma poi alla fine pure quella finisce, si diradano le nubi. Si spengono le luci e si torna nel mondo del matrimonio, dove in realtà i calzini non vanno mai in coppia, dove si aprono discussioni incredibili sulla tavoletta del water, dove deve stare su o giù, la carta igienica dove la metto, lo specchio è pieno di goccioline e via via discorrendo, dove una frase detta male può essere quasi una dichiarazione di guerra, un'occhiata può ferire, tutti quei piccoli nei che noi trascuravamo durante il fidanzamento diventano delle montagne quasi invalicabili. E allora quello che succede appunto è che bisogna compiere una scelta, bisogna decidere di amare. Però dice, vabbè, ma se io pure mi fossi deciso, come si fa? Perché pure questo non è mica tanto semplice. Bisogna, una volta scelto e deciso, affrontare il problema in maniera scientifica, no? Perché abbiamo detto che l'innamoramento finisce, è un periodo prevedibile e provvisorio, no? Svanisce. Però poi ovviamente io pure volessi amare mia moglie come? Così come lei desidera sentirsi amata. Quindi se lei ha un suo linguaggio d'amore dobbiamo impossessarci della sua lingua madre. Noi tendenzialmente parliamo la nostra lingua madre, quella che abbiamo imparato stando a casa da nostra madre, dai nostri fratelli, ma se volessimo dialogare con un cinese dovremmo probabilmente imparare un po' di cinese, così come con un inglese, con un russo piuttosto che con un tedesco. Dobbiamo compiere uno sforzo in più. Ecco cosa succede dopo il matrimonio, cioè dopo il fidanzamento, nel matrimonio. Bisogna imparare un linguaggio diverso dal nostro, però bisogna pure sapere qual è questo linguaggio, perché bisogna capire qual è il linguaggio d'amore principale di nostra moglie. E noi stasera faremo un excursus, diciamo, un volo su vari linguaggi, sono 5 in particolare, e l'aspettativa è quella che ciascuno di voi. Se è in una situazione ovviamente di relazione affettiva, siano fidanzati, siano questi sposati, dia un colpetto a chi gli sta vicino, se lo conosce ovviamente, se no non è che dice guarda io parlo sto linguaggio, no? Quindi fate in modo che, insomma, state attenti a chi date la comitata, insomma, ecco, dice guarda io parlo sto linguaggio, perché poi bisogna dirselo, no? Dice io parlo sto linguaggio e l'altro una volta che lo sa deve dire vabbè ma tu quale parli e quest'altro. Questo perché? E vi dico una cosa, lo raccontavo prima, che io vado spesso in Valpusteria, che è una valle disgraziata e che piove sempre, che quindi, però io ci continuo ad andare perché mi piace leggere, ma ho scoperto la lettura, quando piove che fai? Leggi. Valpusteria piove sempre, sta sempre a piove, quindi l'unica opportunità è leggere, portarsi dei libri, è una valle sfigata, indescrivibile, non so se vi è mai capitato ad andare, cioè non ci andate, state più sotto, Val di Fassa, molto meno. Ma comunque se doveste andare lì, quello che succede è che una volta appunto mi sono messo a leggere questo libro di Ingrid Betancourt. Non c'è silenzio che non abbia fine ed è veramente bello perché lei fu rapita dalle FARC nel 2002 e liberata nel 2008. Stette 6 anni prigioniera di questa banda che l'aveva ridotta in uno stato proprio disumano, no? Non mangiava, stava male, denutrita, era proprio un animale, era privata anche della sua intimità. E veniva schernita, trattata male, no? Trattata malissimo. E lei a un certo punto ha detto, poi si è convertita perché ha sentito la radio, dice la voce del Papa, e poi comunque c'era questa voce di suo papà che gli diceva non c'è silenzio che non abbia fine, c'è sempre una speranza, devi sempre immaginare che questa situazione prima o poi cambi, no? E lei dice, una persona anche ridotta in quelle condizioni, tenete conto che la sua segretaria, per per uscire da questa situazione così obbrobriosa, così triste, ha avuto una relazione con uno dei carcerieri, è nato un figlio, poi tra l'altro che non stava neanche tanto bene. Insomma, ognuno poi si è organizzato, no, per avere qualche piccolo favore, qualche piccola cosa clientelare, no? Lei ha deciso di non ricorrere a nessuno stratagemma, ma lei ha detto in queste condizioni disumane a una persona gli può essere tolto tutto, tutto, tutto, la fame, la sede, l'intimità, può essere trattata come un animale, ma una cosa non gli si potrà mai togliere, la libertà di decidere che persona vuole essere, la libertà di decidere che persona vuole essere. Lei ha deciso di non odiare i suoi rapitori, per esempio, ha deciso io non li voglio odiare, nonostante tutto mi spinge ad odiarli, addirittura li vorrei magari vedere morti per come mi trattano, lei no, ha deciso di non farlo, no? Questo significa che tante volte il contesto nel quale ci troviamo non ci costringe, ci può influenzare, se magari è brutto tempo possiamo essere un po' meno allegri, ma questo non è una decisione, cioè il contesto non può costringerci a comportarci in quella medesima maniera, no? Siamo sempre noi che comunque decidiamo. Diceva Bismarck alla moglie che gli scriveva dal suo paesello, insomma, cioè adesso che stai a corte sicuramente, insomma, non ti ricordi più di me, sei diventato un uomo famoso, no? Una persona in vista, eccetera, chissà, insomma, se mi ami ancora. E lui gli rispose, io ti ho sposato non perché ti amavo. E lei diceva, caspita, beh, a saperlo. Dice, no, ti ho sposato per amarti. Ti ho sposato per amarti. È questo passaggio che il più delle persone evidentemente trascurano. Io ti ho sposato per amarti. Questo significa che c'è una decisione a un certo punto che entra e che è una decisione nostra. Nostra. Siamo noi che decidiamo, ovviamente con sforzo, con un minimo di sacrificio, con una disciplina. È una decisione razionale, non è ossessiva e istintiva così come era quella del fidanzamento. Ma adesso, al di là di questo sermone, noi ci guardiamo il primo linguaggio e poi facciamo altre piccole considerazioni.